andiamo. Billy. Ah, mi piace un po' con l'inizio. Oh yeah. E qua, Fufi. E poi piano. Sto cercando di fare una cosa, che devo vendere un apparecchio. E quale? Il 440. E perché? Non va bene. E funziona tutto meno che la 27. C'ha il WFO nuovo, l'accordatore funziona benissimo in tutte le altre bande tranne che la 27, e siccome non me ne frega niente di andare nelle altre bande, me lo voglio vendere. Lo vendo come difettoso, mi. E beh, non te lo ripara nessuno qua, un peccato. Beh. Non ne ho né tempo né soldi da sprecare. Adesso gli faccio le fotografie e lo metto su internet. Non me lo compreranno. Poi chi se lo vuole aggiustare se lo aggiusta, che ne so. È una belva come apparecchio. È che in 27 non va bene, quindi non me ne frega niente, là. È un apparecchio che serve per altra gente. Me lo so. Devo dire, non sai neanche quanto ci vuole per ripararlo, più o meno. No, negativo, non me ne ha fatti nulla più, dice apparecchio. Lo vendo e basta, così me ne libero. Già ne hai altri, dai. Tanto quello aspetta che avevi preso, quello nuovo, già. Quello va alla grande, va. Non ho capito. Hai preso quello nuovo da poco, quello va alla grande. Quello sì. L'ho comprato, quello che sto usando adesso, l'ho comprato nuovo questo. Ma intanto devo stare in 27, mi è passata tutta la fantasia di andare da altre parti e quindi non mi interessa più, capito? Capo. Vabbè, dai. Sta entrando qualcuno? Poca gente, fra, la verità. Poca gente. Ma vabbè, magari quando cambia il tempo, che fa un po' più di freddo, magari la gente non esce ed entra là. Stanno entrando in poche persone. Sì, la chiesa poco fa non c'era nessuno, questo che c'era un po' di propagazione, sentivo qualcuno inglese, chissà dove stavano parlando, ma non segnali buoni, dai, perlomeno per la mia antenna erano bassi, segnale 1-2. Ah, ecco. E negli giorni scorsi ho fatto parecchi collegamenti io. Sì, ma anche io qualcuno l'ho fatto, anche lontano, anche in America, dove non ero mai arrivato. Sì, lo so, anch'io ho collegato Canada nei giorni scorsi, la Russia, cosa hanno già collegato? La Turchia, il Regno Unito. Sì, mira, la California, Finlandia, ce l'ho scritto qualcuno me l'ho scritto. California era W, Charlie, allora, Whisky, Charlie 338, California. E io la Scandinavia anche ho collegato. aspetta che è entrato Antonio. Anato. Buonasera. Sono un po' che non ti sentivate, vabbè, anche per colpa mia, Come va, Anto? Bene, bene. Ma sei ritornato in zona? Perché il segnale è più forte. No, ho fatto un po' di l'antenna. Da poco, quelli scendi in pizza. Mi stai arrivando a 9 più 10. Hai migliorato parecchio. Già lo so. Ahia, tutto bene? Piano piano. Andiamo avanti, no? Vai avanti, Natale. E dai, io vi lascio che sono al computer, sto facendo cose, dai. Ci sentiamo alle prossime, se coincide. Ehi, già siamo qua, dai, buon... vogliamo vedere cosa è facendo, maledetto. Buon lavoro, allora. Avanti, Anto. Ehi, caffa. Sì, adesso sono in attesa. Dove ce l'hai adesso? Da balcone. Va bene, che antenna è? Cos'è? Boomerang o di macchina? Boomerang. Va bene, va bene. Io mi ascolti bene a me? Sei una bomba. Io sono un po', come dico, un po' di vitamine anch'io, Ma te lo ricordi quando ero là, che è proprio a bomba? Eh sì, più o meno, segnali Natalino, che Natalino ce l'ho vicino, Segnali Natalino. Natalino, ce l'ho a linea d'aria, cosa sarà? 500 metri, 600 metri saremo. Quando abitavo nell'altra casa, ragazzi, era proprio a fondo scala. Sì, sì, a bomba tutti e due. Quando parlavate assieme, infatti, non si comprendeva nulla. Due bombolette proprio. Là era il tempo. Vabbè. Non ci sono possibilità che rientri lì, no? Dove? Dove abitavi prima? Sono a casa mia qua, andare qui, ha pagato senza davvero l'affitto. Lei non sapevo che fosse in affitto, non ne abbiamo mai parlato, E quindi, meglio, ognuno è meglio in casa sua, allora. Pazienza per il segnale, ma già arrivi bene lo stesso. Ehi, zitta. L'ultima parola, hai detto che non sei là sopra, in che zona sei, ce lo puoi dire? Quindi non si... la mia antenna è coperta, però verso la telocce io sono... perché c'è il tetto, là. Io ho l'antenna verso la parte di Sassari Vecchio, la grotta a cielo, quella zona lì prende. Oppure se arrivo che arrivo qua. No, arrivi bene, sei liscio? Sì. Quasi, là. Un po' di vitamina ce l'ho, ma... Vedi, anch'io, aspetta che sgancio, mi dici com'è, quanto scende? Ecco qua, adesso sono, come si dice, come mamma mi ha fatto. Ah, non è certo. Quindi lascio così? Anche se vuoi. Se no tocca, come si dice, lei nel sorride. Io adesso. Ehi, caspita, ha tutti pochi sono le vitamine, ma già mai sei bello. E qui sei neanche tre. E così dopo 10. Dove dici? Ma aumenta anche la radio, tutto la paradamma, là. È un cristiano. No, sono pochi allora. No, grazie per qua. Aggiungi un po' di zeri. Sono io ando piano, non poco. No, arrivi bene. Così ti ascolto benissimo. Ti ascolto bene anche liscio, però, perché non c'è QRM, Se ci sono casini di propagazione, avrei difficoltà. Ripeto, perché anche per colpa mia, l'antenna non è sul tetto. Certo, e avrai vedi che poi metti arriva a fondo scala come una volta. Se arrivi già forte così con l'antennino, la boomerang. Io mi ricordo quando ho piazzato questa a posto della boomerang, ho cambiato sempre nello stesso punto, dalla boomerang a una 5 ottavi, questa che c'è, che è una specie di canna da pesca, ha cambiato un abisso. Da Santiago 2-3 che arrivavo agli punti, sono arrivato a 9-5, 9-10. Però c'è la boomerang, è fuori di pompa. Ma quella grande c'è. Allora, lo stilo era da 1,75, dai, lo stilo principale. Poi aveva il radialino, ma era tutta, come si dice, si è sistemata perché è stata spezzata, ricostruita, messo un gradellino nuovo su, aggiunto quello in alluminio. Quindi non è che fosse un granché, però insomma, meglio di niente, dai. Sì, però sempre nella finestra, capito? Questa almeno la punta arriva al cornicione. Quella era proprio. Neanche al secondo piano arrivava. C'è proprio il palo. Sì, cosa palo? È attaccata alla cosa per stendere. Se gli metto il palo non impara tutto, ci stacca la tappa dal muro, ci stacca. Già va bene così, dai. È già tanto che sta reggendo la canna da pesca. Che non è piccola, sono 8 metri di antenna. Sarà poi qui di sopra. Se dovessimo aprire il tetto magari ci vorrebbe un palo, un bel palo, bucata la tegola, fatto uscire fuori un bel palo quindi zingato o in alluminio, sigillato bene a silicone e poi la puoi mettere sul tetto, se no non lo attacchi, ci vuole per forza un palo come si deve. Quella della televisione l'antenna è un tubo da niente. Sì, sì, però non abbiamo uscita noi sul tetto, bisogna aprire e togliere tutte le tegole per uscire fuori. Non abbiamo una botta, è un casino. Ma. Perché non va? Perché ci vogliono soldi, ci vogliono, non serve a nessuno. E quindi, cosa fai? Vediamo un domani se c'è da fare qualche riparazione o forse c'è da cambiare l'antenna, quella dei televisori. La televisione è sopra. Sì, quelli sì. È proprio. Bisogna sempre aprire il tetto, togliere le tegole, c'è una specie di pezzo di legno, una maglia falsa mia, che si toglie dove appoggiano le tegole e da lì si esce, ci vuole una scala furbi, ci puoi uscire fuori. Sì, allora è facile. Sì, non è impossibile. È che qui ogni volta che tocchi il tetto qua poi entra acqua, ogni scusa è buona, capito? Ma non è che. No, infatti già, è quello che serve a me, ripeto, già mi ascolta, ma dai, riesco a arrivare un po' a Porto Torres, anch'io nuda, anch'io non riesco, qui. Beh, scusa, se non la puoi andare, c'è la vuoi fare tu, ci accontentiamo, dai, come tu adesso non ti accontenti, così mi accontento io, un domani come dici tu non si sa mai nella vita. Fare il buco, mettere le staffe all'interno, dentro nel sottotetto, dai, vogliono ancorate lì al muro portante, e metto lontano, specialmente lontano dalle antenne di TV, non ci sa mai che disturbi, vedete, è strano, mi appena muovi qualcosa, dicevi, da quando ha cambiato l'antenna non funziona più nulla. C'era qualcuno? Dove riesci ad arrivare tu con la bumera? Hai fatto dei collegamenti qua in zona? Alghero per esempio? No, perché è tutto qua aperto. Oh, scusa. Porto Torres? Non lo sento perché da questa parte del cielo è tutto aperto. No, ma sei peggio di me, dai. Che cosa buona, ma... Certo. È un casino comunicare. Quando la mettere su, ora che capirà. Hai già deciso quando mettere il palo? Piano piano, vedi che quando sarà per insegnare a poco. A sorpresa, l'antenna ce l'hai già, cosa avevi? Una Ringo, cosa avevi? Ho avuto la Ringo io. Quindi ce l'hai già, no? Già pronta? Sì. Terminando là riuscivi benissimo, arrivai veramente bene. Io credo che stai entrando ultimamente, sì, o anche tu come me? Sì, no, già entro di là. E chi stai entrando delle vecchie guardie? Wow, intanto qua di tu oggi non venisci uno invece là? No, sono tutti in agguato. Sì. Ma il lavoro come va? Ma non si sta lavorando adesso, una merda. Ma sempre quel lavoro stai facendo di prima? No, non capito, scusa. Che faccio tutt'altro. Hai cambiato tutto. Stanno da rinchiudo. Qual era fama invece di niente qua. Insomma. C'è crisi, c'è tu. Ma tu nel coso dei treni là fuori? Sì. Ma vicino lì? Sì, vicino dove abito io là. La notte mi è entrata una guardia di quelle che sono là, la notte. E cazzo, mi è entrata a manetta, non c'è più una freccia né niente. Cazzo, la massa di guardia. E tu dove vedi? La moto vero, stavo scendendo. E beh, lì deve entrare, la guardia dove è entrata? La manetta c'è entrata nel cancello, non c'è più una freccia né nulla. Ah, boh, o c'è stata qualche chiamata? Prima di tanto... Ci sono quelli che impatticano i treni, mi con le bombolette. Ma non è che poi capita a me. Eh beh, bisogna stare sempre attenti, no? Quando puoi tagliare la strada. Per carità, qua. È un casino la notte qua, terra di nessuno. Ma come se la pezzo l'ha derubato, come qua. Fanno a gara e sicuramente sono più di una banda. Per loro è come dice, una conquista mia, riuscire a fottere le guardie. Cosa vuol dire? È la loro consolazione quella. Così è. Perché poi mettono le firme, no? Quando passa quel treno, c'è la firma di quella banda lì. Ma va, vabbè, anche quel pizza fa faccia, cosa fa? Sono errore dei vecchi amici. Sì, siamo le migliaia da Ciappi, a 2-2 inventa diventare dispari, però vai e beccali, perché ti fregano, perché tu sei una parte e loro patticiano dall'altra, capito? Che... Ma ci vogliono telecamere, un po' così, sensori. Anche Alghero gli hanno patteggiato, che a volte il treno, l'ultimo dove rimane ad Alghero, no? Diciamo dorme in stazione, anche lì qualche volta lo pasticciano. Ma quando mai uno si pasticcia? Ma tutte cose si fa senso, ma cosa si dice? Un ciappo a mano in pezzo, cosa dice lei? Se lei chiarisce? A noi sembrano senza senso, ma loro li sanno interpretare, capito? Tutte quelle scritte sono tutte delle parole che loro già le capiscono, noi ci mettiamo un po' di tempo a decifrarle. No, sono più bravi da quasi. E allora? Dappertutto muri, case qua, gente che ha appena fatto la facciata rovinata, nei punti più alti. Hai visto lì andando dove c'è la piazzetta? Guarda, se tu guardi il tetto è pasticciato anche il tetto, ma come hanno fatto a salire lassù? Per carità, qua. Io no, ci sono anche scoppati che si mettono a tutti quello che non è. Ma non c'è da senso. E poi? Fanno a gara, poi più in vista è meglio, è per loro, è un orgoglio, capito? Per loro. Appena va andare corra del romanzo o della mamma. E perché non si chiama, è proprio un mal di vero. Oh yeah, va. Lo vuoi fare? Ma non vista così. Una vita dove c'è dei paesi gli danno proprio gli spazi per questa gente qua, no? Nei muri proprio fatti apposta per farli sfogare un po', per farli sferniciare, perché qualcuno è anche bravo e molti disegni sono anche belli, ma molti non si spiegano niente, ripeto, noi non lo capiamo, ma loro già tra di loro già si conoscono. Ma mi fa una massa di guanti. Sanitari non so, però ripeto, anche loro sono artisti, un po' incompresi, però sono artisti, dai. Ripeto, qualcuno è bravo, molti disegni sono fatti bene, caspita, però falli senza fare danno, dai. Poi questi ragazzini di adesso mi sentono un parlare con il trano, cioè mi sembrano fino a piedi. gli mettiamo anche le olive, invece facciamo le olive con il finocchietto. No, ma il branco è più grosso. Vabbè. E molti già sono voci tu, un po' voti dentro, mi non si sanno divertire più. Noi eravamo una razza a parte, eravamo, avevamo poco però ci divertivamo. Questi se non fate di danno non si divertono. Il marito è una zaglia, questo con la brutta gli appariti, ma c'è comunicazione. Vedi, è così. Meno male che già non sono tutti così, ma molti già sono così, hanno un loro gergo per parlare. Poi lì, quando c'è il greppa sono tutti forti, la ciappa 1-1 non ci valgono due giri. Con i pezzi, con i pantaloni, parafara, li vedi, tutti i cazzi trappati, ma tu non è andato. Mudanti all'aria. Non c'è più religione, Anto. Ah, io mi ammetto che li trattavano i campagnoli, un po' carezzo. Cos'è, Anto? Li trattavano i campagnoli, io mi ammetto, un po' carezzo. Ma anche da lì, pensavano se non potevano in tirare, non si è imparato. Ah, il manto di parafara. E io un po' trappato, già, in campagna. A vari paghi di voi trappati, te li immagini? Tutti li vendono già rotti, già consumati e così, la moda, la giamanetta. Cosa li passano? Nella moda, come si dice, gusti e colori non si discutono. Noi siamo ancora vecchio stampo là. Ma io mi ritengo la tessano. Ma penso anch'io, dai, un po', non sai, qui ci sono proprio buoni. Il bambino, avevi un bambino piccolo avevi, no? Io ho un bambino piccolo. Quanti anni ha adesso? Quasi un anno. Piccolissimo ancora. Mi ricordo quando era nato, nell'anno scorso. Come si chiama? Gabriele. Sarà un futuro CB? Sì, tanto me lo porto. Ormai non c'è più nessun appassionato, eh. Fai tutto sul telefonino, lo smartphone. E vedi, lo conosci già con telefoni da 1000 euro, iPhone. Non aveva attuato. Già ne abbiamo noi. Le tre cose che ne ho comprato dopo che ho iniziato a lavorare io, se no. Sai cosa avviene prima, il palito d'acqua. Allora, il primo baracchino era un portatile che c'aveva tre canali, però solo uno era quartato, no? Allora ne avevo comprato gli altri quarti, mi sembra che c'avevo il 5, mi sembra il 15 e il 23, mi pare che tre canali avevo. Anzi era una coppia, erano due portatili, no? Con l'antenna telescopica da un metro e mezzo, quant'era? Tanto ogni antenna e va via, tre canali. Riuscivo a parlare con Sassari, ma mi dovevo mettere nella parte più alta della zona dove abitavano noi, dai. Bei tempi. E poi avevo preso un pace 8030 era, baracchino. Poi riusciva bene, mi. Ci avevo abbinato un microfono da palmo, era un, se non sbaglio, un Turner più 3, più 2 o più 3. Bello, eh. Poi me l'hanno bruciato, cazzo, l'ho dato a uno per farmi i collegamenti, io non volevo rischiare, invece me l'ha bruciato Edo. Ha fatto una bomba, usciva, era una coppiata micidiale, va. Poi si era bruciato il baracchino lì, perché lo usavo, avevo messo una prolunga, l'avevo portato dentro casa, sicuramente c'avevo stazionarie. E ha scaldato, ho fottuto i finali. Aspetta, non li ho potuti cambiare. No, avevo preso un altro, mi sembra un Innovit, un 40 canali, ma neanche a paragone. Ma i baracchini prima erano più forti. Ma bella, una bella modulazione, bella, calda. Poi ripeto, con quel microfono era una bella abbinata, un bel abbinamento era. Pace 8030. Qualcuno si lo vendono ancora in giro, me. Lo vedo nei mercatini dell'usato a volte su internet. Pace. Pace, proprio pace, come la pace, che dai. Faccia 80-30, 8030. Bella apparecchio, Ma semplice, in barca quanti canali aveva? 23 canali. Non c'aveva niente di che, me. Non aveva niente. Squelci, volume, non verrà il tasto per le scariche antidisturbo. Antidisturbo, dai. Bell'apparecchio, però. Era tutto cromato, me. Tipo questo che sto usando adesso, questo è lo stesso, il Samurai. È tutto cromato, come i vecchi tempi. Adesso tu cosa stai usando? Cos'è? 2006. Vedi, più o meno di questa serie qua, 2009, 2006. Una bomba. Sì, questo l'ho, gli ho abbassato un po' la potenza per pilotare a Federico. Quindi l'ho portato a 4 watt e mezzo, meno di 5, dai. Si è andati a compagnia. Oh, ti devo lasciare, ti devo. Via dai, se coincide, stammi bene, un abbraccio, alle prossime. Ciao Anto, ciao. Ciao Alzo. Oh ciao, Sergio Maria. Ciao, il vicino. Dimmi tutto. No, stavo salutando anche l'altro amico che sta chiudendo. No, sono in ascolto, vai Anto, ciao. No, intanto sono in ascolto, vai, ciao. No, l'ho accesa adesso, vi ho sentito appena così, 5 minuti, nemmeno pure. Vabbè, dai, ciao Arturo, ci sentiamo. Ciao Gianmarie. Ciao a te, buon proseguimento, ciao. Ciao, arrivi bene qua, Ci sta un'antenna, cosa hai fatto? Ho tracciato l'antenna sul tetto, però già va bene, la precisa quella da Salino, già va bene, ovviamente, e anche tu arrivi bene. Una bomboletta sì, va bene, arrivavi sempre bene, ma come adesso no, quindi hai messo la Game Master. Esatto, infatti la Game Master, quella ho messo. Io anch'io sto usando tipo quella, l'ho costruita io, già lo sai, quella la canna da pesca. Sei 9,25 tu qua, va bene, allora è bella pulita, è una meraviglia, va bene così, dai. Sì, anche tu sei 9,30 qua, questo Smith, non so se sia giusto, però ti ascolto bene, complimenti. Dai, stammi bene, un abbraccio anche a te, alle prossime, ciao Gianmarì. Ok, ciao, attrezzate, ciao. Broculus, atticio, broculus, broccoletto, broccolone, broculus, broculus, broccolo. Che qualcuno ci dice? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Dammi giustamente. Hola? Hola, per favore, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Hola. Antonello, Eia, mi ascolti? Eia, ti ascolto, fammi quanto arrivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po' quanto arrivo. Quasi 9 e 5. Tu arrivi 7 o 3, quasi 4, con questa baracchina qua, quindi figurati. Cosa vuoi dire? Aspetta. Io mi faccio vedere la mano, Che sto facendo? Prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Santiago 9, Radio 5, radio, va bene. Non ho sentito a Gavino, sono da Predetto. Lo devo chiamare, ma se non c'è la radio sicuramente è in pigni. Ok. Come sta buio, amico Santella, lo sai, sì. Fate le misurazioni a occhio. Con mio nipote e ce l'ho messa sopra a mire e peccato l'antenna si è staccato il cavo che c'è all'interno, me lo sono immaginato, non lo so, guarda la verità, tu la conosco ormai la Mantova Turbo, la Mantova 5 le conosco tutte, quindi adesso la attaccherò domani e vediamo un pochettino di rifarla totalmente nuova, cioè nuova all'interno, che è un casino, mica cazzo, devi in pratica salvare il DL al capretto femmina, poi salire sopra e dopodiché devi stagnarlo eccetera eccetera, e no, è un metroiaio, cazzo, bello è quello. Anche perché devo staccare tutto, anche la base dei radiali, che è un metroiaio, se lo smonta quello, soffo tutto. Vabbè, ma se c'è tutta la base, però, ecco, lo devo sentire, poi avremo modo di andare a prenderla, ho capito. Adesso vediamo un pochettino, ma poi ti dico io. Adesso quando domani la smonto e poi vediamo cosa cazzo se rimetterla a posto. Se riesco a mettere a posto come si deve, vieni e te la porti via, non c'è problema. Io non ho bisogno, Antonella, ce l'ho per dire, raga. E la tutina, adesso sento un po' da bene e poi ti faccio sapere. Ti devo lasciare, Antonè, che devo andare a fare carica, mi sono chiamato da poco fa, sono entrato giusto per darti il controllo. Comunque già vai bene, eh? Ah, bene male, ok, non c'è problema. Io pensavo che la pezza era verità. Se per qualcun altro non so cosa dirti. Non mi cambia nulla, la verità, non è che ci sia questo, quindi non mi cambia niente, tutto dipende dall'antenna. Va bene, dai, ti faccio sapere, d'accordo? Ciao, nel caso si coincida più tardi, ciao. D'accordo, ok, sentiamo là, al limite, non c'è problema, ciao, buonanotte.